454. Insalata russa. La cosiddetta insalata russa, ora di moda nei pranzi, conservato nel carattere fondamentale, i cuochi la intrugliano a loro piacere. La presente, fatta nella mia cucina, nella sua complicazione, è una delle più semplici. Insalata a grammi 120, barbabietole grammi 100, fagiolini in erba grammi 70, patate grammi 50, carote grammi 20, capperi sotto aceto grammi 20, cetriolini sotto aceto grammi 20, acciughe salate numero 3, uova sode numero 2. L'insalata, che può essere di due o tre qualità, come sarebbe insalata romana, lattugoni, radicchio, lattuga, tagliatela a striscioline. Le barbabietole, i fagiolini, le patate e le carote, pesatele dopo lessate e tagliatele a piccoli dadi, grossi meno di un cece, e così pure le chiare e un rosso delle uova sodate. I capperi lasciateli interi e i cetriolini tagliateli alla grossezza dei medesimi. Le acciughe pulite e tolta nella spina, tagliatele a pezzettini e, fatto tutto questo, mescolate ogni cosa insieme. Ora preparate una maionese, vedi numero 126, con due rossi crudi e quello sodo rimasto e 2 decilitri di olio sopraffino. Quando sarà montata, aggiungete l'agro di un limone, conditela con sale e pepe e versatela nel detto miscuglio, rimestando bene onde lo investa tutto. Sciogliete al fuoco 3 fogli di colla di pesce in 2 dita di bicchiere d'acqua. Dopo di averla tenuta in molle qualche ora e sciolta che sia, versatene quanto è grosso un soldo sul fondo di uno stampo liscio e il resto mescolatelo nel composto che poi verserete nel detto stampo per metterlo in ghiaccio. Per sformarla facilmente, bagnate lo stampo con acqua calda e, se volete darle un'apparenza più bella ed elegante, quando nello stampo avrete versato lo strato sottile di colla di pesce, prima di aggiungere il composto ci potrete fare sopra un ornato a diversi colori con l'erbaggio, le chiare e il rosso delle uova sode sopra accennate. Questa dose potrà bastare per 8 o 10 persone.